Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. A dicembre programmiamo la prima dimostrazione per i genitori. L'atmosfera era elettrica. Io non facevo altro che camminare nervosamente come un animale in gabbia. Ma quando iniziamo, i bambini sono bravissimi. Mi guardo intorno e vedo che tutti i genitori presenti sono commossi. Ciao a tutti, mi chiamo Francesca Bertini, vivo a Pesaro e sono un fisico e mi occupo di informatica. Le 16 e quasi 8 minuti, questa è Radio 24 e questa puntata di Voi Siete Qui, oggi in un giovedì 18 ottobre qualunque, proprio nell'ora in cui le mamme tornano a casa con i figli appena usciti da scuola, è dedicata a tutte loro, a tutte quelle che dicono: io non ho mai imparato una lingua, non la so parlare bene e spero che mio figlio sia in grado di farlo. Ecco, questa puntata ascoltatela bene perché è dedicata a tutte voi, ma è soprattutto dedicata a tutti quelli che ormai fanno tanti soldi con i corsi di inglese, quelli che ti insegnano a parlare la lingua in 2 mesi, quelli che ti promettono di possedere tutti i termini tecnici per imparare un mestiere in inglese e ci fanno un sacco di soldi, ma compreso il simpatico, posso dire, nostro John Peter Sloan, visto che fa i DVD, no, per il Sole 24 Ore. Ecco ragazzi, fate ancora i soldi per una decina d'anni, perché poi l'inglese la gente lo parlerà senza per forza dover seguire i vostri corsi, e questa puntata ne è la dimostrazione. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook del programma, che è sempre quello lì, ed è Voi Siete Qui Radio 24, è sempre quello lì, però lo devo leggere. Voi Siete Qui Radio 24, oggi si parla di apprendimento. In questo caso, con la storia che ci ha inviato Francesca, lo si fa a proposito di bambini e a proposito della lingua inglese. Però in generale, il gioco di oggi è cercare di capire qual è stata la cosa che avete appreso più facilmente o più in fretta. Lucia scrive: il latino. Purtroppo certe passioni non si scelgono. Avrei preferito la matematica. Susanna: ho imparato in fretta e bene a lavorare a maglia. Non avevo nemmeno 5 anni e, imitando mia mamma, sotto la sua guida, creavo con i ferri e lana guardaroba stupendi per le mie bambole. È uno stupendo golf arancione per me. Non ho mai più smesso di lavorare a maglia. E tra l'altro, Susanna, adesso va di gran moda, no? È già passata la nota della moda del knitting. Come si chiama? Margherita, tu fai parte di quei circoli di gente che si incontra a fare a maglia. 349-238-6666, il knitting una roba per donne e per hipster. Jack: purtroppo ho imparato troppo in fretta a usare i videogiochi e tutto ciò che concerne il computer. Purtroppo, però anche lì, c'è gente che ha fatto i soldi facendo corsi per computer, adesso credo non serva più. È più o meno la stessa fine che faremo con l'inglese. Valentina: ho imparato a leggere a 3 anni. Mi annoiavo perché, figlia unica, vedevo le riviste e chiedevo a mia mamma cosa vi fosse scritto. La mamma, diplomata maestra, me lo ha semplicemente insegnato come fosse un gioco e io l'ho imparato in pochi mesi. 349-238-6666. Ecco, questa è la chiave di tutta la storia di oggi. Il gioco, tenete presente questo termine, è il racconto che ha fatto Francesca che riguarda suo figlio Leonardo. Tra l'altro, una cosa che poi le devo chiedere direttamente è che, così, in un attacco di modestia, ha chiamato questo racconto e questo metodo di apprendimento il metodo Leonardo, che è un po' come l'olio di Lorenzo, cioè che ce n'è uno e prende il nome del figlio, anche se lei lo ha imparato negli Stati Uniti da qualcun altro. Vincenzo: mia nonna mi diceva che da piccolo maneggiavo il cacciavite meglio del nonno. Passavo ore nello sgabuzzino a smontare vecchie radio e piccoli elettrodomestici ormai in disuso. 349-238-6666. Qual è stata la cosa che avete imparato più in fretta, più velocemente e meglio possibile? Ma non solo in età infantile, non solo da ragazzi, anche adesso. Se c'è una cosa che la gente impiega magari un anno a imparare, se avete imparato ad andare in windsurf in 10 lezioni, quando ce ne vogliono 30 per imparare a stare in piedi e a planare sull'acqua. 349-238-6666. Un piccolo, prima di cominciare col racconto, così, una piccola nota riguardo i racconti che continuano ad arrivare a Voi Siete Qui, @radio24.it. Per tutta la stagione racconteremo ancora le storie vostre, quindi ogni puntata una storia. Ecco, però chiediamo episodi di vita vera. Se sono romanzati come una favola, sono sicuramente interessanti, ma noi facciamo fatica a raccontarli. Quindi vi chiediamo di raccontarli come sono successi. Davvero non ci interessa che siano scritti bene, ci interessa che sia semplicemente un episodio della vostra vita che racconti qualcosa di voi. 349-238-6666. Questa è la storia di Francesca e della storia di Lorenzo. Durante l'estate del 2009 mi trovavo ad Orlando, in Florida, in vacanza con la mia famiglia. Avevamo deciso di portare il nostro bambino di 3 anni, Leonardo e non Lorenzo, ai parchi Disney e Universal. Mentre aspettavo il traghetto che doveva riportarci all'albergo, noto il papà di un bambino americano che gli stava dando in mano uno smartphone di quelli nuovissimi, un costosissimo iPhone, per ingannare l'attesa. Ho subito pensato, questo è impazzito. Dare un oggetto così costoso a un bambino piccolo. E pensare che io ne avevo appena ricevuto uno in regalo e non l'avevo neppure portato con me nel viaggio, per paura di rovinarlo. Negli Stati Uniti fare le file nei parchi è quasi un'abitudine. E così, tra una coda e un'altra, ho visto molti altri bambini giocare con quel tipo di telefono. Allora mi sono chiesta a che cosa li facessero giocare. I giochi che conoscevo io non erano certo per bambini piccoli. Con sorpresa ho scoperto che erano giochi educativi, dove dei simpatici personaggi insegnavano lettere, numeri e forme. Ho pensato che fosse una cosa veramente interessante e appena rientrata in Italia, iniziai subito la mia ricerca e trovai molte di quelle applicazioni e capii che erano molto accattivanti, erano colorate ed accompagnate da musiche piacevoli. Avevano un solo difetto: erano tutte in lingua inglese. In italiano non esistevano. Pensai di provare comunque a darle a mio figlio, perché probabilmente si sarebbe divertito anche lui. Lui, in effetti, era entusiasta e non c'era gioco che preferisse a quelle. E sono una mamma che, come tutte quante le mamme, sono apprensiva, ma non ad eccesso, quindi sono moderatamente apprensiva. Per esempio, anche quest'estate ho lasciato mio figlio 2 mesi e mezzo in un centro estivo negli Stati Uniti, da solo, quindi non direi che la mia apprensione sia eccessiva, ecco. Così, per qualche mese, ho trascorso la maggior parte delle mie serate alla ricerca di applicazioni da proporgli, perché ne era affamato e non riuscivo a soddisfare la sua fame. Una sera, mentre stavo preparando la cena, mio figlio Leonardo stava giocando con una coppia di mostri. Non capisco perché, ma sembra proprio che i bambini maschi abbiano una vera attrazione per le cose schifose, appiccicose e repellenti. Stava giocando facendo combattere i mostri tra di loro. E facendo la voce dei mostri, come fanno tutti i bambini, improvvisamente mi accorgo che tutto quello che dice non lo sta dicendo in italiano, lo sta dicendo in inglese. Ovviamente non usa termini complicati, non sta recitando Shakespeare, ma lo sento chiaramente usare la parola kick, calcio. Il tempo si è fermato per un attimo. Eravamo in autunno in quel periodo e le giornate iniziavano ad accorciarsi, mettendoti addosso quella sottile malinconia che danno le cose che finiscono. Ero lì, in piedi, con una patata in mano, o forse era una cipolla. E ho pensato di scaricargli una serie di quei giochi. E così ho fatto. Ho scelto applicazioni di specifici argomenti in ordine crescente di difficoltà. Mi sono procurata anche i DVD di Barney, uno dei personaggi più amati dai bambini americani. L'avevamo conosciuto nei parchi giochi. Barney è un dinosauro fucsia a bollini verdi. E anche se non saprei dire il motivo, tutti i bambini impazziscono per lui. Il risultato è stato che mio figlio parlava sempre di più e con un'ottima pronuncia la lingua inglese. E oggi lui, che non ha ancora 6 anni, parla e gioca in inglese con una pronuncia praticamente perfetta. E quello che è straordinario è che adora quella lingua. Non mi piace stare tranquilla e finisco sempre con il mettermi nei guai. Ogni tanto mi viene un attacco di altruismo che finisce sempre ed inesorabilmente male. aiuti qualcuno e magari dopo, quando smetti, perché non puoi andare avanti all'infinito tutta la vita, o magari ti sei stancata o hai altro da fare, quello se la prende, perché ormai lo considera un suo diritto acquisito. Ma tant'è, un giorno, in preda ad uno di quegli attacchi, propongo alla scuola materna di mio figlio di fare questa esperienza con tutti i bambini. Eravamo nel 2010, a inizio giugno. L'aria era calda ed eravamo in una villa. Sotto di noi il mare. Eravamo lì per la festa di chiusura dell'anno, ma al momento non se ne fece niente. E per oltre 10 mesi non ne parlammo più. Il mio attacco di altruismo era passato e la mia vita proseguiva tranquilla. Finché arriva la Pasqua del 2010, quando l'insegnante di mio figlio mi dice: «Ok, proviamoci». Io sono colta alla sprovvista, balbetto che forse è tardi, ma lei è estremamente convinta. Ha sentito parlare il piccolo Leonardo in inglese e ha utilizzato quei 10 mesi di silenzio per fare un grande lavoro e far conoscere il progetto ai suoi superiori. E allora comincio a fare incontri e riunioni. E dopo essere stata sottoposta agli esami di tutta la gerarchia scolastica e aver raggiunto l'approvazione finale, iniziamo. Questo progetto era mirato all'insegnamento della lingua inglese dai bambini piccoli, diciamo dai 3 anni ai 6 anni, fino alla scuola materna. E quello che è venuto fuori alla fine è che i bambini hanno imparato effettivamente i termini molto più di quelli che noi pensavamo. La loro pronuncia è perfetta, e quello che invece è venuto fuori che non sapevamo è che addirittura amano moltissimo la lingua inglese, tanto che anche a casa chiedono i cartoni animati in lingua inglese piuttosto che in italiano. A ottobre 2011, 18 bambini entrano nell'aula a giocare con dei nuovissimi tablet, sdraiati per terra due a due, senza necessità di alcuna istruzione. Sono talmente concentrati che anche se un elefante rosa dovesse volare sopra le loro teste, neanche se ne accorgerebbero. A dicembre programmiamo la prima dimostrazione per i genitori. A quel punto ancora nessuno di noi aveva l'idea di cosa avrebbero saputo fare i bambini in 2 mesi. L'atmosfera era elettrica, io non facevo altro che camminare nervosamente, come un animale in gabbia. La maestra non era riuscita neppure a dormire. L'insegnante madrelingua si agitava qua e là per tenere a bada i bambini sovraeccitati. E quando iniziamo, incredibilmente, i bambini sono bravissimi. Non solo hanno imparato tutto, ma hanno una pronuncia invidiabile. Canzoni, filastrocche, domande e risposte, tutto perfetto. Mi guardo intorno e vedo che tutti i genitori sono commossi. Dopo, tutti insieme, genitori e figli, si mettono a giocare con i tablet. Impossibile farli smettere, e addirittura anche l'uso del nostro campanaccio che adoperiamo per far finire le lezioni si rivela inadeguato. E da quel momento è tutta una strada in discesa. I genitori dei bambini di 4 anni spingono per avere quel servizio e si parte anche con loro. I genitori dei bambini di 5 anni, insieme agli insegnanti e alla scuola, decidono all'unanimità di portare l'esperienza anche alla scuola primaria, e una fondazione bancaria esamina il progetto e ce lo finanzia. Credo che questa sia una grande rivoluzione, un'istruzione di livello superiore alla portata di tutti. Submarines and satellites. We got everything you ever wanted here tonight. È bello perché c'è sempre un po' di compiacimento, giustamente, quando si è appreso qualsiasi cosa in maniera veloce e meglio degli altri. Anche se si parla di dattilografare, all'età di 11 anni ho imparato in 3 settimane a dattilografare senza guardare la tastiera, grazie a un CD-ROM che ahimè non trovo più. Sono velocissima anche oggi. Cioè, c'era un CD-ROM che ti insegnava a dattilografare velocemente. Ho imparato a fare la firma di mio padre a 8 anni. Credo che lui non abbia mai firmato una mia giustificazione a scuola. Alfredo da Firenze. Beh, adesso lo sa. A scuola mi resi conto che leggevo gli schemi elettrici senza nemmeno averli studiati. Ora faccio l'elettricista. Diego da Milano. Vedi, quando imparare una cosa diventa un mestiere, ma il messaggio al momento vincente è quello adesso lo ritrovo, Michela, che dice: mio figlio, mi togli la base un secondo Pietro, mio figlio guida la macchina da solo a 8 anni, ovviamente non per strada ma nei campi, lo vedo passare e mi dico: ma Michela, io vorrei avere un'inquadratura della tua faccia quando, allora, la scena è questa: faccia della mamma, sullo sfondo passa l'automobile con un bambino di 8 anni che la guida, e l'espressione della mamma è: Ma 349-238-6666, la cosa che avete appreso più velocemente e meglio di tutti e più facilmente. 349-238-6666. Lo dico perché Leonardo parla inglese, manco fosse Michael Jackson. Pronto, Francesca? Sì, pronto. Buonasera, Matteo. Buongiorno, come stai? Molto bene, grazie. Dove ti trovi adesso? In questo momento sono nella mia cucina seduta. Che lavoro fai tu, Francesca? Io mi occupo di informatica e di organizzazione aziendale. Per una grande azienda? No, sono consulente. Ah, ok, quindi è una società tua? Sì. Di cui sei il capo? No. E sei anche una che non parla tanto, giusto, no, Francesca? Senti, innanzitutto, la prima cosa è, come sta Leonardo? Sta molto bene, in questo momento sta facendo i compiti. E quanti anni ha lui adesso? Sei, ne ha compiuti sei alla fine di maggio. Senti, mi piaceva questa tua definizione che dai di te quando dici non sono una mamma apprensiva, e a dimostrazione di tutto ciò racconti che quest'estate lo hai mandato dove? L'ho mandato in un centro estivo degli Stati Uniti, chiaramente c'eravamo anche noi lì in vacanza, però io quando intendo da solo intendo che lui è stato in questo insieme ai bambini americani, con gli insegnanti americani, da solo, senza l'aiuto della mamma e del papà. Ma e voi dove eravate? Fuori dal campo? Noi eravamo, cioè, dove dormivate? Noi eravamo nella nostra casa che abbiamo affittato negli Stati Uniti, lui era in questo centro estivo. Ah, ok, e voi eravate lì in vacanza anche voi? Sì, dopo noi lo andavamo a riprendere e lo riportavamo la mattina. È come un centro estivo che ci affidano in Italia. Ma scusami, ma scusami Francesca, ma avete fatto 2 mesi e mezzo di vacanza? Sì. Ah, wow. No, scusami, nel senso, no, non per farmi fatti vostri, ma tuo marito che lavoro fa? Anche lui è un... Ok, lavorate insieme? Benissimo, veniamo al metodo Leonardo, Francesca, secondo me hai più voglia di parlare di quello. Meglio, sì. Ok, allora, visto che stanno arrivando un sacco di messaggi di mamme, questo è un orario in cui lo abbiamo capito incontrandole le persone in giro, ci sono tantissime mamme o papà che vanno a prendere i figli a scuola e li riportano a casa, perché non so come si chiama, tempo prolungato, tempo pieno. Tempo pieno. E moltissimi stanno chiedendo, dici subito che applicazioni sono, come si chiamano. Però spieghiamo una cosa, se non ho capito male, correggimi se sbaglio. Le prime applicazioni che tu hai scaricato erano applicazioni americane o comunque inglesi, per bambini americani o inglesi, che servivano a cosa? Non a imparare la lingua, evidentemente, o sì? Per loro, per giocare, perché chiaramente la lingua okay. inglese per loro la conoscono. La quindi erano dei, erano dei giochi di apprendimento già? Sì, erano dei giochi di come il nostro, se posso fare dei nomi, fai. Sapientino, ecco, okay. Una cosa simile a queste... Scusa, ma Sapientino tra l'altro è della mia generazione. Anche la mia, okay. Ad esempio. Ok, perfetto. Quindi hanno delle applicazioni per imparare in lingua inglese. Ad esempio le lettere, i numeri, le forme, i colori, gli animali. Ok, e lui ci passava praticamente la giornata? Ah, se non eravamo io e mio marito a fermarlo, sì, certo, dopo non bisogna anche dosare i tempi, perché sennò i bambini fanno solo quello, perché gli piace moltissimo, sono molto attratti, quindi bisogna dosare i tempi, e nei tempi in cui io gli davo questo tablet, lui si concentrava sui giochi che gli mettevo io. Tra l'altro, a proposito di tablet, scusami, ci sono due cose che vengono fuori, che raccontano un po' del tuo carattere. La prima è che dici, non sono una mamma apprensiva al punto che è stato due mesi e mezzo negli Stati Uniti. L'altra è, mi avevano regalato un iPhone e io l'avevo lasciato a casa per paura di rovinarlo. Sono un amante della tecnologia e era il mio l'iPhone, quindi... E poi però invece da amante della tecnologia hai cominciato a dare in mano a tuo figlio un iPad, giusto? Dato in mano perché secondo me gli serviva per imparare. A questo punto, insomma, saltiamo i passaggi, arriviamo a scuola, lo consigli all'insegnante della scuola e diventa un metodo d'apprendimento adesso, giusto? Adesso sì. In quale scuola, mi dici? È la scuola dove doveva anche mio figlio, è una scuola paritaria che parte dall'asilo e arriva fino a tutte le elementari. Senti, allora facciamo così, visto che io ti devo salutare, ma che continuano ad arrivare messaggi di richieste, tu hai un sito, un blog a cui qualche mamma può andare, può accedere? Il libro che chiunque abbia un iPad può scaricarsi, il libro che si chiama appunto Il Metodo Leonardo. Okay. E comunque c'è anche un sito che si chiama ilmetodoleonardo.com e possono anche, scusami, un'email volevo dire, che è ilmetodoleonardo.com @gmail.com e mi possono scrivere anche va lì. Bene, perfetto. Rispondo a tutti. Perfetto, Francesca, ti ringrazio moltissimo per la storia, per la tua pacatezza, salutami Leonardo. Grazie mille. Ciao. Un saluto a tutti. Ciao. Buona giornata, ciao, grazie. Ho imparato ad andare sul monosci in due ore. Il monosci è di quella roba che ogni tanto appare e poi scompare. Mi sono spaccato le anche, ma ho imparato. Enrico da Firenze. Sembra molto meno timida di quanto è apparsa durante la telefonata Francesca nella foto che ci ha mandato e che pubblichiamo sul sito di Radio 24, la pagina di Voi Siete Qui. Una ragazza bionda e sorridente, non ha su trucco, e immagino che alle spalle ha, come si chiamano, Tiziano, le fasce dello zaino, gli spalloni, gli spallacci, ha gli spallacci di uno zainetto da gita, per cui io non si vede, ma immagino che, diciamo, tra le braccia abbia il figlio, ovviamente, e alle spalle si vedono i merli di un castello, che chiaramente sono quelli di Walt Disney. Apprendimento, sostantivo maschile. Acquisizione di una o più cognizioni. In psicopedagogia, processo di acquisizione delle nozioni necessarie ad un individuo per conseguire o migliorare l'adattamento all'ambiente. Etimo, derivato di apprendere, data 1260 circa. Quindi questo è 1810, apprendimento. Questa è la parte, diciamo, ufficiale del dizionario di Voi Siete Qui, è quella che noi diamo e che la nostra De Luca Alessandra legge, presa da un dizionario che non ricordo più qual è il Devoto Oli, è il Devoto Oli. Poi però chiediamo sul profilo Facebook di dare una vostra definizione della parola del giorno e di apprendimento. Cinzia, ad esempio, scrive: l'apprendimento è ciò che rende, evviva Dio, tra parentesi, ogni individuo differente da tutti gli altri, è la maggiore delle fonti del nostro cambiamento. E poi qualcuno, questo come è un copia e incolla, processo necessario purché un individuo, perché, no, non è un copia e incolla, processo necessario perché un individuo possa inserirsi e adattarsi a un determinato contesto socioculturale. Wow. E Paolo ancora: apprendimento, prendere coscienza di un fenomeno dopo averne verificato il risultato. 349-238-6666, si parla di apprendimento, delle cose che avete imparato in maniera più veloce. Alex, 42 anni, Imperia, a 2 anni e mezzo in bici senza rotelle. Che è una roba che si fa quanto? A 6 anni? A 7 anni? No, a 3 anni si va senza rotelle già? Vabbè, Tiziano, io non a 3 anni. Secondo me almeno a 5. Mio nonno mi ha insegnato a guidare il trattore a 11 anni, Marco. A 13 anni ho imparato a fare l'hacker, Massimiliano. Ciao, ho imparato a guidare la macchina a 14 in 3 giorni. Ora di professione guido il tir. Cesare da Torino. Visto che l'argomento aveva una sua scientificità, la redazione di Voi Siete Qui, nella persona peraltro di Margherita Ina, ha fatto una cosa che non siamo abituati a fare, mi sa nemmeno lei, ed è una sorta di ricerca scientifica sul capire come nasce la parola e come impariamo le lingue, eccetera eccetera. E qui c'è un articolo delle Scienze addirittura che dice sul gene della parola: un gruppo di ricercatori del Wellcome Trust Center, tanto non è mai importante chi fa le ricerche, quando dici uno studio di basta quello, perché viene sempre o Stati Uniti o Germania, guidato da Anthony Monaco, ha identificato per la prima volta un gene coinvolto nello sviluppo del linguaggio, e poi spiega perché sarebbe importante, perché se manca questo gene è più complicato imparare, se questo gene invece è più sviluppato si apprende meglio. Ma l'articolo che invece voglio leggervi riguarda proprio l'imparare le lingue con un accento diverso per quanto riguarda i bambini che sono ancora nell'utero materno, che da questo articolo di National Geographic pare che apprendano non tanto chiaramente la lingua, ma l'accento della lingua della madre, che sentono usare dalla madre, e lo usino per piangere. Che i feti sentano e si abituino a una lingua non è una novità. Molti studi hanno mostrato che subito dopo la nascita un bambino esposto a lingue diverse tenderà a preferire la lingua che assomiglia di più a quella sentita durante la gestazione. Tuttavia, riconoscere una lingua ed essere capace di parlarla o di piangerla sono due cose diverse. Secondo i risultati di uno studio guidato da Kathleen Wermke del Centro per lo Sviluppo Prevocale dell'Università di Würzburg, che ha studiato le melodie di 60 neonati sani, 30 francesi e 30 tedeschi, le melodie o intonazioni non sarebbero dei veri accenti. Gli accenti, spiega Wermke, hanno a che fare con il modo con cui le parole sono pronunciate. I ricercatori sapevano già che chi parla il francese tende tipicamente a salire di tono verso la fine delle parole e delle frasi, mentre chi parla tedesco fa esattamente il contrario. E sapevano anche che la melodia o intonazione, nel caso della lingua parlata, svolge un ruolo cruciale nell'apprendimento di quella lingua. Questo ci ha condotto, spiega Wermke, a svolgere una ricerca sulle proprietà specifiche della melodia nel pianto dei neonati. Le melodie del pianto dei neonati seguono le stesse intonazioni delle lingue che i bambini hanno sentito nell'utero. Il pianto dei bambini francesi, per esempio, tende a finire su una nota ascendente. È chiaro dunque che il lungo processo dell'apprendimento della lingua, dice Wermke, comincia con la percezione e la produzione di melodie nella fase fetale e nella prima infanzia. Le scoperte di questo studio potrebbero aprire altre prospettive, oltre quella della comprensione su come si sviluppa il linguaggio. Ulteriori ricerche sul pianto, conclude Wermke, potrebbero risolvere l'enigma su come si è formato il linguaggio tra i nostri antenati. Two tabs on your tongue. I heard the shepherds, I heard the sheep sleep. Now my only one. Broken sweethearts. Oh. E a proposito di piangere e imparare una lingua nuova, è arrivato questo messaggio che dice: ho imparato, ascoltando la tua trasmissione, a piangere immediatamente. E così ogni giorno quando esco dal lavoro ti ascolto e piango, e così mi scarico dalle tensioni accumulate. Una specie di autoterapia. Ciao Massimo, post scriptum, ho 55 anni e non piangevo mai. Benissimo, così posso cambiare quando mi chiedono: ma che lavoro fai esattamente? Guarda, faccio piangere. Di lavoro, io faccio piangere. Poi, non so, la gente cerca di fare quello che vuole, però io faccio piangere. E ringrazio Franco da Udine che col ditino puntato mi dice: scendi sulla terra e smettila di parlare con i ricconi che fanno 2 mesi e mezzo di vacanze in America. Sarà contento l'ascoltatore che ci ha mandato la storia in cui doveva vendere la villa che aveva comprato perché non aveva più una lira. Io ringrazio anche Franco. Ringrazio soprattutto Tiziano Bonini, Pietro Lacorte e Margherita Ina. La storia di oggi era di Francesca e anche lei è un punto rosso su una mappa. Mio nome è David, abito a Fano e la storia di domani è la mia e parla di storie indefinite che però si riescono a definire anche dopo tanto tempo. Questa è la mia storia e io sono qui.